se c'è luce, tu la vedrai. E la mia voce l'ascolterai. E se c'è l'aria la respirerai. Sei arrivato e poi sei andato via. Ti sei portato una fotografia. In questo campo pieno di fiori, dove i bambini non fanno più rumori. E ora ogni giorno ti vengo qui a trovare. Ci sono tante cose di cui parlare. Cose che gli altri non capiranno, sai. Io non ti lascio mai. Ed i tuoi brividi li sento tutti addosso, come quei lividi potessi, ma non posso, ma non posso. Voglio uscire dalla mia mente e fuggire se ce la faccio. Dove sempre non è per sempre, tenerti ancora una volta in braccio. E vengo a prenderti velocemente per arrivare all'imbrunire, sul lungomare a costruire castelli di sabbia trasparente. E se c'è pioggia ti bagnerai. E se c'è il sole ti scalderai. E se c'è il vento tu volerai. Te ne sei andato senza avvisare. E ora bisogna proprio attraversare la strada dove prendevi la mia mano. Se c'era il buio e la stringevi piano. E ora ogni notte ci diamo appuntamento dentro ad un sogno in cui tu sei contento. E c'è una donna che ti viene a chiamare, ma io ti tengo forte, io non ti lascio andare. Sei sempre uguale a mille giorni fa, nel tempo inutile che più non passerà, non passerà. E voglio uscire dalla mia mente e fuggire se ce la faccio, dove sempre non è per sempre, tenerti ancora una volta in braccio. E vengo a prenderti se sei pronto. Vengo a prenderti per andare a giocare sul lungomare nella luce del tramonto.